Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che ormai da oltre un anno vi accompagna quotidianamente la mattina, a quest'ora in replica alle 20:45. Chi ci ascolta da tempo sa che trattiamo temi legati agli abusi, appunto, ai soprusi, alle violazioni dei diritti. Chi non ci ascolta e magari lo farà oggi e per la prima volta, troverà la storia che andremo a raccontare particolarmente curiosa, ma io aggiungo che è anche particolarmente drammatica. È un dramma di quest'Italia, è un dramma del Sud in particolar modo, e se non fosse una vicenda tragica potremmo veramente parlare di una tragicomica napoletana o comunque di una tragicomica campana. Sì, perché torniamo su una vicenda che noi abbiamo già affrontato esattamente un anno fa, lo ricordate? La famiglia Nobile. Ebbene, la famiglia Nobile viveva all'interno dell'ufficio anagrafe di Ercolano. Per una serie di motivi si è trovata senza casa, sostanzialmente perché il suo immobile era un immobile a rischio e, non sapendo dove andare, è stata ospitata volontariamente, va sottolineato, dal comune di Ercolano. Noi l'abbiamo considerato un abuso vero e proprio alla dignità della persona, ma anche alla dignità dei lavoratori. E sì, perché mentre la signora Nobile con i suoi familiari staziona nell'ufficio anagrafe, i dipendenti continuano la loro attività quotidiana normalmente, quindi tra un risotto, un cambio di un pannolino ed un telefonata personale, ci sono i dipendenti che magari rilasciano certificati. Una situazione veramente ridicola, possiamo dire, che è stata anche poi fatta oggetto di riprese da parte di telegiornali nazionali dopo che noi avevamo mandato in onda queste puntate. Abbiamo deciso a distanza di un anno di ritornare dalla famiglia Nobile, di ritornare nel comune di Ercolano con la speranza di non trovare più la famiglia. Sentiamo che cosa ci hanno detto all'ufficio anagrafe di Ercolano. Pronto? Buongiorno, volevo parlare con la signora Eleonora Nobile. Senti, in questo momento non c'è, lei chi è? Sono Roberto Galullo. Roberto? Galullo. Vabbè, quando rientro gli dico che l'ha chiamato, va bene? Mi scusi, ma io con chi sto parlando? Non mi sta parlando, perché questo è un telefono che è anche d'ufficio. Sta parlando con una persona dell'ufficio, capito? Quindi sto parlando con una persona dell'ufficio? Sì. E non c'è nessun altro della famiglia Nobile? No, in questo momento non c'è nessuno. Quando rientro vi faccio chiamare, loro non ci fosse recapito. Sono usciti? Sì. Ho capito, d'accordo, va bene. E allora riprovo, fra quanto posso riprovare? Oggi pomeriggio oppure più tardi, non so, pomeriggio e sera ci sono sempre la famiglia Nobile. Pomeriggio e sera ci sono sempre? Dopo le 2:15. Dopo le 2:15 ci sono sempre? Dall'1:15 in poi già li trovate. Dall'1:15 in sì. Poi? D'accordo. Bene. Va bene, allora riprovo più tardi, grazie, buongiorno. Sì. Buongiorno. Avete sentito che la famiglia Nobile ancora lì vive e ancora lì staziona. Abbiamo aspettato il tempo necessario, così come c'era stato suggerito, e abbiamo ricercato la famiglia Nobile sempre presso l'ufficio anagrafe di Ercolano. Sentiamo com'è andata. Pronto? Signora Nobile? Sì? Buongiorno, sono Roberto Galullo, Sole 24 Ore, Radio 24. Buongiorno. Come sta? Tutto a posto. Tutto a posto, ma sta ancora lì? Sì, stiamo ancora qui. Ma vi piace il comune? Volete rimanerci ad abitare? Non è che ci piace, ma comunque non possiamo andare da un'altra parte. Perché, signora Nobile? Che succede? Che accade? Loro non ci hanno dato un alloggio, dice che non ce l'hanno. Loro sarebbe... Praticamente noi non possiamo prendere un alloggio in affitto. Loro sarebbero il sindaco e l'amministrazione? Sì. Ma non è che voi avete rifiutato qualcosa che loro vi hanno detto, no? No. Assolutamente. Anzi, che le cose sono andate a poggiare perché ho perso anche mio padre. Questo qui io non lo sapevo, ovviamente le faccio le condoglianze di cuore. Grazie. Suo padre, mi ricordo che stava poco bene, quindi doveva rimanere obbligatoriamente. Mi pare non si potesse muovere, lo ricordo male. Sì, mio padre stava male. Cioè, la prima cosa, non poteva stare qui dentro. La cosa è peggiorata di più da quando è stato qua. Perché non poteva stare, perché qua c'è la porta aperta sempre e c'era corrente, lui non poteva stare in mezzo alle corrente, cioè praticamente doveva stare bene. Ma scusi, adesso quanti siete voi lì dentro l'ufficio anagrafe? Siamo quattro, mia sorella, mio figlio, appunto, sì. E mia mamma. Ho capito. Mi scusi, ma Vorrei cercare di capire una cosa, ma adesso voi come fate a vivere lì dentro? Cioè, continuate a stare lì quando passano i cittadini? Non è cambiato nulla, insomma. Sì, sì. Cioè, noi viviamo qui dentro quando loro aprono, che fanno dei stati di famiglia, delle tessere, noi stiamo anche noi qua. Ho capito. Senta una cosa, ma il sindaco non si era impegnato anche a cercarle un lavoro, o ricordo male io? Sì, sì, si era impegnato, poi è andato tutto... A carte 48? Sì, sì, sì, perché comunque io, ecco qua, oggi sono uscita per andare a trovare un lavoro, non trovo un lavoro. Ah, quindi quando noi l'abbiamo chiamata in precedenza, lei era uscita per cercare un lavoro? Sì. E nessuno le dà un lavoro perché è difficile trovarlo ad Ercolano? Sì, a Ercolano, sì. Scusi una curiosità, ma voi, insomma, la vostra famiglia, ma come campa? Mia mamma lavora, non è che chissà che prende, massimo 300 euro al mese, ma... Mi scusi, io vorrei cercare di far capire ai nostri radioascoltatori qualcosa di più di quello che è la vostra vita quotidiana in quell'ufficio anagrafe, ma... Cose banali, tipo la televisione, una lavatrice, una lavastoviglie, ma come ve la cavate? Allora, come televisione ce l'abbiamo perché ce l'avevamo già e l'accendiamo perché comunque il bambino voleva vedere anche la televisione, mentre la lavatrice non c'è perché quando siamo andati via non abbiamo preso niente perché comunque loro dissero solo... cose minime indispensabili. Sì, perché ricordiamo che voi stavate in un palazzo pericolante e vi hanno obbligato a lasciarlo. Poi andiamo a prenderlo e quindi ci hanno fatto perdere tutto. Senta un'altra cosa, scusi, ma nel certificato cosa ci scrive? Residenza? Ufficio anagrafe? No. Noi ci abbiamo ancora la residenza a via Cortili, però sempre via San Vito 46, comunque dove sta l'ufficio anagrafe. Ho capito, e quindi insomma la situazione è abbastanza complessa. L'ultima volta che voi avete parlato con il sindaco, quando è stato? Dopo un po' che è morto mio padre. Loro dissero, signore non vi preoccupate, vi diamo un aiuto. Scusi, quando è morto suo padre? Il mio padre è il 14 maggio. E dopo il 14 maggio del 2008 vi hanno ribadito che avrebbero cercato di mettervi in regola? I servizi sociali dissero che noi dovevamo sgombrare perché ci buttavano fuori. E invece poi questo non è successo? No, non è successo perché non lo possono fare, perché dove ci buttano in strada? Ecco, noi abbiamo due minori e cioè non possiamo andare in strada. Ecco, però a lei, scusi, non sembra un po' a questo punto anche di abusare un po' della pazienza del comune di Ercolano? Perché no. Suppongo che ci siano molte famiglie che siano nella vostra situazione, se tutte andassero ad occupare un comune. No, noi non abbiamo occupato, loro ci hanno messo loro qui dentro, sì, dicendo sì. Che dovevano trovare una sistemazione a noi e sono passati. Ecco, magari io mi sono espresso male, forse la parola occupazione non è corretta, però magari può diventare un'occupazione dopo che uno c'è stato un po' di tempo, insomma, o no? No, perché loro ce l'hanno le abitazioni chiusi. Ma lei aveva detto che anche il sindaco aveva un'abitazione che non voleva darle, ma sì, ma insomma il sindaco non è che si può privare della sua abitazione, no? No, la sua abitazione. No, intendo dire un'abitazione che ha, che può affittare, ma la affitterà chi vuole, no? No, vabbè, però nei casi bisognosi poi ci sono state tante altre persone che hanno avuto gli alloggi e poi ci sono state altre che hanno messo abusivamente dentro queste abitazioni. Ma che noi abbiamo di bisogno, voi certo. Ecco, ma scusi, ma quindi voi non avete assolutamente intenzione di lasciare l'ufficio? Voi state lì, insomma? Ci sono abitazioni che pagate poco gli affitti, perché ci sono gli affitti di 700, 600. Senta, scusi, una curiosità, oggi che cosa ha cucinato? No, ancora niente, ci mangiamo un panino e poi stasera si cucina. Ah, ho capito. Un'altra cosa, lei ha detto prima che era uscita per cercare un lavoro. Che tipo di lavoro va cercando? Perché magari non si è radioascoltatori della zona di Ercolano. Cari radioascoltatori, allora sentite un pochettino qui la richiesta della signora Leonora Nobile. Allora, diciamolo, lei che tipo di lavoro cerca? Magari le diamo una mano noi se possiamo. Io praticamente faccio le pulizie. Sì. Cioè vado a fare le pulizie in albergo. Ok, ma allora lavorava in ristorante. Ok, allora io riassumo per i nostri radioascoltatori. State sentendo questa storia che ha degli aspetti comici e drammatici allo stesso tempo, nella migliore delle rappresentazioni melodrammatiche, appunto, di una terra nobile come la Campania. La signora nobile vive in questo ufficio anagrafe ad Ercolano, dispostissima a fare un lavoro onesto, a fare anche la donna delle pulizie. Se qualcuno è interessato, chiamateci, mandateci una mail, un abuso al giorno, @radio24.it, e dite: l'offro io un lavoro alla signora nobile. Contenta, nobile? Sì, sì. Bene, proviamoci anche noi con questo. Allora, io le dico questo, che adesso sentiremo, cercheremo quantomeno di metterci in contatto con il sindaco di Ercolano o magari anche con l'assessore alla casa per capire effettivamente se si può trovare una soluzione alla sua situazione e a quella della sua famiglia, ovviamente. Sì, sì. Va bene? Va bene. Allora, questa è la storia della famiglia nobile. Un anno dopo, avete ascoltato, purtroppo c'è stato un lutto in famiglia, ma la famiglia nobile ancora lì vive e non ha nessuna intenzione di andarsene. Abbiamo promesso che avremmo cercato il sindaco. Lo faremo, quindi continuate a rimanere con noi. Ascoltateci anche domani, perché probabilmente sapremo come è andata a finire questa vicenda un anno dopo. Io ringrazio in regia Giacomo Spunta, in studio Laura Fagin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, ma vi ricordo la nostra mail: unabusoalgiorno@radio24.it, e per chi volesse visitare il mio blog, l'indirizzo è http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Da Roberto Galullo, appunto, una buona giornata a tutti. Hey!